Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. E siamo qua insieme in diretta sino alle 11. Obiettivo Salute con voi, in regia Carmelo Lauricella, in redazione Alessandro Marco Tulli, e poi ci siete voi che siete i veri autori di questo programma. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 66, se volete mandarci un messaggio, un vocale, un WhatsApp, noi siamo qui. E in linea abbiamo il professor Massimo Ciccozzi. Buongiorno professore. Professore, bentornato. Buongiorno a voi e grazie. Grazie di quest'altra opportunità di poter parlare un pochino di questa pandemia. Ormai è una pandemia. Ormai è una pandemia, una parola che ci faceva paura. Adesso poi abbiamo letto il significato vero di questa parola con l'aiuto di tanti esperti, e sottolineiamo ancora che tutti insieme possiamo farcela. Restando a casa, d'accordo. Ecco, perché dipende molto anche da noi. Noi siamo sempre riconoscenti al lavoro che fate voi, medici, ricordiamo gli infermieri, ricordiamo gli operatori sanitari, ma non solo, tutte le persone che continuano a lavorare per garantire la nostra quotidianità. Noi dobbiamo fare una cosa molto semplice, anche se è faticosa: noi dobbiamo restare a casa. Professor Ciccozzi, ripeto brevemente la sua qualifica, ma responsabile dell'unità di ricerca di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell'Università Campus Biomedico di Roma. Professor Ciccozzi, vogliamo aprire con una buona notizia, con quello che potremmo definire uno spiraglietto di luce che ci aiuti un po' a guardare al domani? Le terapie in via di sperimentazione ci aiutano, no? A vedere un po' un dato positivo, ecco. Sì, sono pienamente d'accordo su questo. Ne abbiamo due recenti: il tocilizumab, che è contro l'artrite reumatoide, è stato già sperimentato su pazienti a Napoli, diciamo, viene proprio dall'Istituto Tumori di Napoli, dal Pascale. Questi ricercatori sono veramente in gamba ad aver pensato, secondo me, una soluzione del genere. Addirittura a Fano e Pesaro 8 su 11 pazienti sembra che hanno migliorato, ed è un farmaco, un antinfiammatorio in realtà, non cura il virus, ci tengo a dire. Ecco, ci spieghi bene. Sì. Allora, non è che è un qualcosa che manda via il virus, che cura il virus, no, ma cura la complicanza maggiore che fa questo virus, cioè la polmonite. Fa in modo che le persone tornino a respirare da sole, senza l'ausilio di una macchina, e non è poco. Assolutamente, considerata l'emergenza, quindi questo è... Diciamo che liberiamo le rianimazioni, liberiamo le terapie intensive, liberiamo queste cose, ma liberiamo la gente dalla polmonite, che è ancora meglio. Quindi io sono molto fiducioso su questo farmaco, su quest'idea. L'altra è l'anticorpo monoclonale dello studio degli olandesi. Anche questo, secondo me, è un buon punto, perché è un anticorpo monoclonale che già era sperimentato per la SARS nel 2002-2003, quella grossa epidemia che abbiamo avuto, dove purtroppo il vaccino, come tutti sanno, non è stato ultimato, perché la SARS è sparita improvvisamente dai radar e quindi non se ne è più parlato. E questi ricercatori olandesi hanno fatto questo anticorpo monoclonale. Questo è un anticorpo creato che va, pensi, contro la proteina che permette proprio al virus di infettare le cellule respiratorie dell'uomo. Quindi molto mirato, è come una freccia, ecco, che c'entra il bersaglio. Esatto. Io spero che anche questo vada in sperimentazione. Quando si parla di sperimentazione in questo senso, non è la classica sperimentazione, ci si mette tanto tempo ad avere dei risultati, ma si parla in gergo di uso compassionevole, cioè si dà perché siamo malati di questa malattia, non abbiamo altro per poterla curare. Bene, proviamo questo, e si parla di uso compassionevole. Professor Ciccozzi, perché questi due farmaci sono già disponibili? Credo di sì, alcuni ospedali già ce l'hanno e lo stanno già testando. Ecco, questa è una buona notizia. Questa è una buona notizia. Mi ha portato in Olanda e io, professor Ciccozzi, la porto in Inghilterra. Che succede? Ci facciamo un bagno nella manica, cosa facciamo? Dai, facciamo un bagno nella manica, due bracciate e arriviamo in Inghilterra, professore. Okay. ci siamo. Situazione inglese, perché ci interessa. Che dire? Vogliamo parlare della loro immunità di gregge? Sì. Beh, l'immunità di gregge nell'ambito delle malattie infettive è nota, è un qualcosa che diciamo tende a, in caso di un vaccino per esempio, se noi abbiamo una copertura vaccinale del 95%, il 5% della popolazione, anche se non è stata vaccinata, rimane protetta perché chiaramente il virus non circola o circola di meno. Sì. Quindi diciamo che si fa questa corazza proprio a protezione di chi per qualche motivo, che sono i più vari motivi, ecco, non si è vaccinato. Allora l'immunità cosiddetta di gregge, che è un'immunità di comunità, di popolazione, tende a proteggere anche queste persone. Ora, il fatto che si faccia, come dire, esponendo le persone al virus, insomma, è una cosa un po' incosciente, oserei dire, nel senso che facciamo un esempio, no? Sì. Se noi abbiamo una mortalità del 5%, 10%, no? Di questi malati che si ammalano, in quanto io li ho fatti avvicinare a persone e non ho preso le misure, quindi si sono infettate, no? Ecco, pensi solo che se noi ne abbiamo, mettiamo un 10%, così facciamo i conti pari, come si dice. Sì. Su 1 milione di persone che io faccio infettare, io avrò almeno 100.000 pazienti che debbono andare in terapia intensiva. Ma chi ce l'ha tutte queste terapie intensive? Io non credo che l'Inghilterra le abbia, onestamente. Quindi loro rischiano di andare in crack come sistema sanitario. Cioè, non si fa un ragionamento del genere, si fa nell'ambito di una vaccinazione. Cioè, ed è facile, perché io proteggo tutto quello che non si è vaccinato con chi si è vaccinato. Ma in questo caso noi non abbiamo il vaccino per il SARS-CoV-2. No. Professor Cicozzi, noi ci sentiremo presto, restiamo in contatto. Lontani ma vicini. Sarà un piacere. Grazie, professore. E restiamo un po' a Roma, perché il professor Cicozzi è a Roma, e vado a salutare il professor Claudio Mastroianni, che è vicepresidente della SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, che come sapete ci accompagna per rispondere alle vostre domande in questa diretta. Il professor Mastroianni è con noi, è ordinario di malattie infettive all'Università La Sapienza di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Professor Mastroianni, la stavamo proprio aspettando per farle la domanda delle domande, e sta arrivando già in tutte le versioni, anche al 349-238-6666. Esco, rientro a casa, abiti, la borsa della spesa, le scarpe, dove le metto, come le disinfetto? Le persone che vanno a lavorare e quindi indossano degli abiti, vedo Carmelo, Lauricella lì in regia insieme ad Alessandro Marco Tulli, hanno il loro pulloverino e i loro pantaloni. Arrivati a casa, cosa si fa? Si mette tutto in lavatrice? Professore, ci aiuti a capire bene, perché queste ultime indicazioni che sono arrivate hanno generato un po' di dubbi, diciamo. No. Così. No, in pratica c'è stato, diciamo, questo recente studio che avrebbe dimostrato che il virus comunque sopravvive sulle superfici per qualche ora e anche per una giornata, per esempio sull'acciaio, sulla plastica. E allora si è creato il problema, dice, va bene, se io nella mia normale attività lavorativa, calpesto pavimenti, tocco superfici, ecco, le raccomandazioni sono le stesse che vanno sempre fatte. Prendiamo l'esempio delle scarpe. Cioè, è ovvio che le scarpe, normalmente quando uno sta fuori tutta la giornata, lei non so se si ricorda come avvenivano una volta i nostri nonni, che levavano le scarpe fuori dalla porta e mettevano delle ciabatte, proprio per evitare ma non solo per l'eventuale possibilità di trasmettere il virus, ma tutti i microorganismi. Quindi in pratica è un concetto generale di pulizia. Ma i cappotti, i vestiti, i pantaloni, sarei abbastanza tranquillo. Io credo il problema delle scarpe, in effetti, è una procedura, è una disposizione che andrebbe adottata, considerando però un aspetto importante: questo è un virus estremamente labile e sensibile ai normali detergenti, quindi una buona pulizia della casa, dei pavimenti, delle superfici è fondamentale, quindi stando uno a casa, cioè, e questo è importante perché il messaggio è restare a casa, sarebbe buona norma che periodicamente nella giornata, anche per passare del tempo, ci adoperassimo per pulire con detergenti le nostre superfici. Questo forse sarebbe un consiglio opportuno. Di buon senso, che salva anche l'igiene. Professore, prima delle informazioni sul traffico, poi le passerò altre due informazioni subito dopo. C'è un'ascoltatrice, Mara, ci scrive: nessuno parla mai della cosa più banale e più sporca che sono i soldi. In realtà ne abbiamo parlato proprio venerdì scorso insieme alla professoressa 5, ma ripetita Juvent. Professore, i soldi. Meglio usare la carta, il bancomat, pagamenti? Assolutamente sì, cioè è opportuno, una volta che uno maneggia dei soldi deve chiaramente lavarsi frequentemente le mani, quindi il lavaggio delle mani, allora, è chiaro che io portando dietro anche dei piccoli disinfettanti, quindi a questo punto è chiaro che abbiamo la possibilità di utilizzare carte di credito, bancomat, utilizziamo queste, quindi anche per piccole spese è importante la moneta elettronica, quindi questo è un aspetto. Va bene, messaggio ricevuto. Professore, ci fermiamo un attimo, informazioni sul traffico, potete sentirle, intanto magari vi lavate bene le mani, 40 secondi, vero professor Mastroianni? Non una lavatina di mani veloci, bisogna lavarle bene anche se le laviamo ripetutamente, è corretto prof? Correttissimo. Allora andiamo, mi piace, andiamo subito dopo le informazioni sul traffico, di nuovo insieme, obiettivo salute con voi. Obiettivo salute. Siamo tornati insieme, qua c'è la vostra Nico, la vostra salutare ossessione quotidiana in diretta fino alle 11 insieme a tanti esperti, e in linea con noi abbiamo il professor Claudio Mastroianni. Professor Mastroianni, io prima di passare un'altra domanda vorrei che ci aiutasse a leggere i dati di una ricerca che è pubblicata sulla rivista, su una rivista molto prestigiosa, dalla Johns Hopkins University. È uno studio americano che ha portato gli esperti ad affermare che dall'esposizione al virus alla manifestazione dei sintomi trascorrono 5 giorni circa, 5.1. E quindi questo dato conferma l'importanza e la correttezza della durata della quarantena, che sono i 14. Professore, che cosa ci aggiunge questo studio? Questo ci conferma ulteriormente che il periodo di incubazione medio, cioè nella stragrande, nella maggior parte dei casi, è tra i 5 e i 6 giorni, e quindi ci deve garantire assolutamente sulla durata del periodo di quarantena, che è stata individuata in 14 giorni, che in genere è il doppio del periodo medio. Quindi se io mi espongo a un caso e ho un contatto stretto con un caso positivo di Covid-19, dopo i primi 6-7 giorni, se sto bene, sto uscendo fuori dal pericolo del rischio di aver sviluppato la malattia, quindi già superare i primi 6-7 giorni deve tranquillizzare quella persona che ha avuto contatti e si è esposta a un caso confermato di Covid-19. Grazie professor Mastroianni. Un'altra domanda: resto a casa, state tranquilli, ci scrive un ascoltatore, esco solo per andare al lavoro e per fare la spesa, ma prendo l'ascensore dato che abito all'ottavo piano, rischio, cosa devo fare? L'ideale sarebbe prenderlo da solo, quindi se sta da solo questa persona non c'è nessun problema, l'importante è non salire in due dentro l'ascensore, proprio per mantenere quella distanza sociale che, secondo quello che ci dicono tutte le linee, è ancora importantissima, cioè il mantenimento di quel metro, due metri di distanza è un fatto importante. Quindi prendere l'ascensore da soli. Da soli. Professore, un'ultima domanda, poi domani un altro suo collega della CIMIT risponderà ad altre, comunque voi continuate a scriverci. Gira questa mattina, ci scrive, ci segnala un ascoltatore su WhatsApp, una notizia che riguarda un insetto che sarebbe veicolante del coronavirus. Non trova da nessuna parte la conferma, ci scrive l'ascoltatore, ma ci chiede se secondo lei è una fake. No, assolutamente. Ecco, stronchiamole già sul nascere, così non ce ne occupiamo più. Perfetto, non ne parliamo nemmeno. Ecco, perché sennò allora l'insetto non lo prendiamo neanche in considerazione. Grazie professor Mastroianni per essere stato con noi. Grazie a voi e buona giornata. Buona giornata, grazie. E come ogni giorno apriamo uno spazio dedicato alle nostre emozioni. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, scrittore, nonché amico della nostra trasmissione. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, potrebbe esserci per alcuni o molti di noi un'emergenza nell'emergenza attuale, è l'emergenza salute mentale, o meglio l'emergenza tenuta. Come resistere per molti giorni in uno stato di isolamento sociale senza avere conseguenze, Alberto, per il nostro equilibrio mentale? Ieri hai scritto per il Corriere della Sera un articolo che in cui tu hai fatto una analogia tra noi in questo momento e Tom Hanks in Castaway. Ce lo provi a spiegare questa analogia? Sì, credo che per chi ha visto il film sa che Tom Hanks in quel film è fondamentalmente una persona unica sopravvissuta a un incidente aereo che si trova ad approdare da solo su un'isola deserta, quindi nella prima fase quello che deve fare è imparare proprio a sopravvivere, quindi a procurarsi da mangiare e da bere, ma poi improvvisamente arriva in una zona dove teme la follia e teme di staccarsi completamente dal principio di realtà. In quel momento prende un pallone, ha su scritto la marca Wilson, e lo trasforma in un pupazzo con cui si mette in relazione. È un po' il messaggio che arriva da quel film in questo passaggio, è un po' quello che ci riguarda un po' tutti noi, cioè chi è il nostro Wilson in questo momento, cosa significa per noi, per cui in questo momento le parole chiave sono nessuno e dentro, e sono un po' contro natura, perché noi viviamo proprio certo nella relazione, abbiamo bisogno dell'altro e di stare nel fuori. Ecco, cosa significa trovare un equilibrio dentro a questa dimensione che adesso è veramente profondamente squilibrata. Senti Alberto, chi può essere il nostro Wilson oggi, Alberto, quando uno in carne e ossa non ne possiamo avere? Ma credo che devono continuare a essere prima di tutto le persone che ci sono prossime, quindi se noi siamo in casa reclusi con i nostri familiari, ecco, dobbiamo davvero imparare a costruire un equilibrio sano, perché la casa può diventare un luogo che davvero ci protegge e ci rifugia in questo momento, o potrebbe diventare una bomba pronta ad esplodere, certo, cioè tutti quei fattori di stress e di squilibrio che nella normalità sperimentiamo un po' poco potrebbero diventare fattori proprio esplosivi. Dobbiamo sentire che noi adulti abbiamo la responsabilità di essere proprio un po' come dei comandanti di una zattera dentro una tempesta, i bambini si affidano a noi e siamo noi quelli che devono avere una tenuta emotiva e mentale forte, perché se noi diventiamo una base sicura poi loro si affidano in qualche modo proprio, assolutamente, fidano di noi. E l'altro aspetto credo che sia davvero importante, magari che ci diamo l'idea di tenersi in contatto attraverso, molti fanno le telefonate, ma io consiglio proprio di passare dalla chiamata alla videochiamata oggi, che è così facile. Bravo. Farlo, cioè continuiamo a tenerci in contatto con la videochiamata. Alberto, ti farò una videochiamata. Ecco. Intanto voglio leggervi un'agenzia. I casi di coronavirus fuori dalla Cina hanno superato per la prima volta quelli nel paese asiatico. E secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University, i contagiati nel mondo sono 87.000 contro gli 80.860 dichiarati dalle autorità cinesi. Alberto, ci dai un messaggio di salute che aiuti ciascuno di noi a far fronte ai prossimi giorni di isolamento, e poi raccontiamo anche il progetto che abbiamo pensato di dedicare agli amici che ci stanno seguendo, perché poi passo alla ricetta del nostro medicuoco, quasi cuoco, che è già in linea con noi, il dottor Erzegovesi. Buongiorno, dottore Zegovesi, stia lì con i suoi fornelli. Buongiorno, arriviamo. Alberto? Ma il messaggio di salute, direi non dimenticare che la nostra salute, come ci dice l'OMS, è tridimensionale. È corpo, è mente e relazioni. In questo momento stiamo proteggendo il corpo, dobbiamo trovare modalità per tenere protetta anche la salute della mente e quella relazionale. E questo ce lo dobbiamo inventare giorno per giorno. E infatti tu hai inventato delle cose per noi, hai preparato per i nostri ascoltatori 5 brevi percorsi per questa settimana, quindi una per ogni giorno. Il primo è quello di oggi, che è una breve meditazione e riflessione che sulla tua pagina Facebook ha avuto un successo straordinario e che oggi metteremo anche sulla nostra pagina. E poi ogni giorno trovate per tutta questa settimana 5 appuntamenti sulla nostra pagina Facebook di Alberto Pellai da seguire per il nostro benessere emotivo. Grazie Alberto. Ciao Nicoletta, un abbraccio da lontano che divido anche col dottor Erzegovesi. Da lontano possiamo abbracciarci, dottor Erzegovesi. Veramente. Abbraccio ecco. Sicuro da un punto di vista infettivo. E andiamo in cucina perché il nostro medicuoco quasi cuoco ogni giorno, anche questa è una un'info che potete trovare naturalmente sulle pagine di Obiettivo Salute che verranno animate e arricchite dai nostri esperti con la ricetta del giorno. Una ricetta nello stile medicuoco quasi cuoco. Dottor Erzegovesi, oggi che cosa facciamo? Abbiamo 2 minuti di tempo. Assolutamente, oggi facciamo una bella insalata di arance con un obiettivo doppio, cioè da un lato di idratarci e quindi di dare una buona quantità di verdura ricca di liquidi, ma contemporaneamente di dare quello che sarà il tema conduttore di questi nostri consigli alimentari, che è grandissime quantità di fibre e grandissime quantità di antiossidanti. Ricordiamoci che fibre e polifenoli antiossidanti sono due elementi cruciali per avere un'ottima salute del sistema immunitario. Quindi non dobbiamo farceli mancare. Oggi abbiamo insalata d'arancia alla siciliana, che vuol dire finocchi freschissimi tagliati belli fini, che vuol dire cipolle rosse, che io di solito consiglio mangiamone poche, oggi vi consiglio mangiamone tante. Perfette per mantenere la distanza sociale. Interumana sarà assolutamente rispettata. Aggiungiamo delle erbe aromatiche, cioè dell'origano secco, che ha una concentrazione altissima di antiossidanti, e quindi mettiamolo sempre in questa stagione. Ci mettiamoci anche un paio di olive tritate fini fini per rinforzare l'effetto sempre presente di tutto quello che poi troviamo più concentrato nell'olio extravergine d'oliva, che ugualmente dobbiamo mettere insieme a un po' di sale e un po' di pepe. Gran finale, l'arancia. Associare il finocchio all'arancia significa migliorare la biodisponibilità degli antiossidanti, perché c'è la vitamina C, c'è l'acidità dell'arancia, e significa, perché no, avere anche un gusto da un punto di vista di un sapore un po' dolce, un po' fresco e un po' acido, che è sicuramente molto molto piacevole e molto molto stuzzicante per il palato. Quindi fantastico, una cosa sana. Allora seguite la ricetta sulla pagina di Obiettivo Salute, postateci se volete, mandate anche le vostre foto, restiamo vicini. Obiettivo Salute con voi torna domani alle 10:30 puntualissime. Dottore Zegovesi, buona giornata. Buona giornata anche a voi, buon appetito. Grazie, buona giornata a voi.